Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi infiniti. Quando sei qui vicino a me, questo soffitto viola, no, non esiste più. Io vedo il cielo soprano, che restiamo qui. Abbandonati come se non ci fosse più niente, più niente al mondo. Suona un'armonica, mi sembra un organo che canta. Per te, per me, tu nell'immensità del cielo, per te e per me. Suona un'armonica, mi sembra un organo che canta per te, per me, tu nell'immensità del cielo, per te e per me.